accaduto che una società di cui noi parliamo nella nostra video inchiesta, La febbre del cibo, Bologna, il odore di benessere, ci aveva già diffidato ad aprile a noi e poi insomma appunto minacciando sia quelli a livello penale che risarcimento danni a livello civile. Quello che però è successo in questi giorni è che questa stessa società ha compiuto un atto per noi gravissimo, perché ha mandato una diffida per PEC chiedendo di non appunto mostrare nel comune di Ozzano la nostra video inchiesta, altrimenti avrebbero proceduto anche contro il comune di Ozzano per vie legali, solo per il fatto di aver organizzato questa proiezione. Ecco, questo per noi è davvero un salto di scala, perché noi chiaramente come giornalisti ci prendiamo la responsabilità di quello che diciamo, di quello che scriviamo, perché pensiamo di fare un lavoro serio appunto che rivendichiamo. Da qui a minacciare di querelare, di diffamazione anche un comune semplicemente perché ha organizzato una proiezione, ci sembra davvero un salto di scala che mira a fare terra bruciata intorno a noi e che dal nostro punto di vista mette in discussione un principio fondante della nostra democrazia, che è la libertà di informare senza autorizzazioni, senza censure e anche senza intimidazioni, e questa a noi è sembrata proprio un atto di questo genere. In una lettera appunto sul giornalismo d'inchiesta, la tutela dei giornalisti d'inchiesta e l'informazione che avete pubblicato sui vostri social, voi sottolineate ci sono comunque organismi preposti a stabilire se ci sono informazioni false nei lavori giornalistici o se viene diffamato qualcuno, quindi non è, come dire, un avvocato di parte che può decretarlo. Esatto, questo è il punto, noi come dicevo ci prendiamo la responsabilità di quello che diciamo e scriviamo e ovviamente ci difendiamo in tutte le sedi idonee, come stiamo facendo in ambito penale e anche in ambito civile, che però prima che ci sia una decisione di un qualunque tribunale, né penale né civile, noi, secondo appunto Libera Bologna, noi abbiamo il non solo il diritto, ma anche il dovere di diffondere il nostro lavoro giornalistico, in cui cerchiamo di informare la città su alcune dinamiche e alcune realtà. Assolutamente, non solo, tra l'altro, non parliamo solo di mafie, di 'ndrangheta, i nostri sono lavori in questo momento ampi che cercano di dare conto di un fenomeno, e questo fenomeno per noi è importante che si conosca e che se ne parli il più possibile. Quindi è davvero un atto dal nostro punto di vista incredibile quello che ha compiuto questa società, e ringraziamo però il comune di Ozzano per aver voluto confermare comunque l'inchiesta. Sono già due, diciamo, le inchieste sul tema della ristorazione che a Bologna che avete fatto in questi anni, e spesso dopo, comunque in concomitanza con le vostre inchieste, sono anche arrivate delle inchieste della magistratura. Il vostro lavoro inizia a dare troppo fastidio? Ma sicuramente fastidio sì, nel senso che da un lato riceviamo, questa non è la prima diffida, la prima querela che riceviamo, ce ne sono già altre, quindi sicuramente a chi viene citato nei nostri lavori, per quanto non parliamo solo di mafia, ma siano discorsi ampi che parlano di fenomeni che secondo noi sono sotto gli occhi di tutti, il cambiamento del tessuto commerciale e quindi anche sociale del centro storico, la presenza di grandi capitali, noi parliamo anche di questo e rigettiamo quindi la tesi dell'accostamento tra mafie e tutte le persone di cui parliamo nelle nostre inchieste, perché noi cerchiamo di fare un lavoro ampio che serva alla nostra città, non solo a contrastare appunto quelle persone che poi sono anche oggetto delle indagini della magistratura, ma in generale a costruire un altro tipo di città che non sia schiacciata da determinate dinamiche e che non sia asservita al profitto. Questa è la nostra idea, la nostra anche tesi difensiva. Detto ciò, sicuramente in questi anni abbiamo visto una serie di indagini da parte della magistratura, che appunto alcune erano anche in atto prima dei nostri lavori, quindi assolutamente non ci prendiamo tutti questi meriti, però è sicuramente segno di un'attenzione importante a questo settore, e sicuramente pensiamo che i nostri lavori nel cercare di accendere un faro, accendere una luce, accendere l'attenzione della cittadinanza serva, perché poi chiaramente le forze in campo sono limitate e quindi anche quando poi si deve scegliere su chi indagare, come sicuramente il dibattito pubblico, la sensibilità della cittadinanza anche a livello di denunce, di segnalazioni, chiaramente conta tantissimo, e quindi è questo il nostro lavoro, costruire una città, una società sempre più consapevole e attenta a questi fenomeni, che possa sapere cosa va e cosa non va, possa sapere come agire, a chi denunciare quando appunto vedono situazioni non chiare. E chiudo dicendo che l'importante risultato di ultime settimane è il fatto che adesso abbiamo un ristorante confiscato in via definitiva in centro a Bologna, la Bella Napoli in via San Felice, qualche settimana fa è stato confiscato in via definitiva, quindi questo è un segno molto molto forte nella nostra città, e speriamo che si arrivi il prima possibile a un riutilizzo sociale della stessa attività commerciale.